Il Signore disse a Mosè e ad Aronne: questa è una prescrizione della legge che il Signore ha ordinato. Di ai figli di Israele che ti procurino una vacca rossa, integra, senza tara, sulla quale non è salito il giogo. La darete al sacerdote Eleazzaro, la farà uscire fuori dall'accampamento e la immolerà davanti a sé. Il sacerdote Eleazzaro prenderà poi del suo sangue con il proprio dito e con il suo sangue spruzzerà la parte anteriore della tenda del convegno per 7 volte. Brucerà quindi la vacca davanti ai suoi occhi. La sua pelle, la sua carne, il suo sangue col suo magone saranno bruciati. Il sacerdote prenderà allora del legno di cedro, dell'issopo e dello scarlatto e li getterà in mezzo al fuoco della vacca. Poi il sacerdote laverà i suoi vestiti, laverà il suo corpo con l'acqua e dopo rientrerà nell'accampamento. Il sacerdote sarà impuro fino a sera. Chi l'ha bruciata laverà i propri vestiti con l'acqua, laverà il proprio corpo con l'acqua e sarà impuro fino a sera. Un uomo puro raccoglierà la cenere della vacca e la porrà fuori dell'accampamento in un luogo puro. Per la comunità dei figli di Israele sarà conservata come acqua lustrale. È per il peccato. Chi avrà raccolto la cenere della vacca laverà i propri vestiti e sarà impuro fino a sera. Sarà una prescrizione perenne per i figli di Israele e per chi dimora in mezzo a voi. Chi tocca un cadavere umano sarà impuro per 7 giorni. Si purificherà il 3° giorno e il 7° giorno sarà puro, ma se non si purificherà nel 3° giorno, nel 7° giorno non sarà puro. Chiunque tocchi un cadavere umano e non si purifichi, contamina la dimora del Signore, quell'individuo sia eliminato da Israele. Poiché non si è sparsa su di lui l'acqua lustrale, è impuro, in lui resta la sua impurità. Questa è la legge per quando un uomo muore nella tenda. Chiunque entra nella tenda e chiunque è nella tenda è impuro per 7 giorni. Ogni vaso aperto su cui non è fissato un coperchio è impuro. Chiunque ha toccato in aperta campagna un colpito di spada o un morto per morte naturale, ossa d'uomo o un sepolcro, sarà impuro per 7 giorni. Per l'impuro prenderanno la cenere della vittima bruciata per il peccato e vi si verserà sopra acqua viva in un vaso. Un uomo puro prenderà dell'issopo, lo immergerà nell'acqua e la spergerà sulla tenda, su tutti i vasi, sulle persone che ci sono, su chi ha toccato ossa o ucciso o morto o sepolcro. Il puro aspergerà l'impuro nel 3° e nel 7° giorno, lo purificherà nel 7° giorno, laverà i propri vestiti, si laverà con acqua e alla sera sarà puro. L'uomo impuro che non si purificherà sarà eliminato dal mezzo dell'assemblea, perché ha contaminato il santuario del Signore, non ha sparso l'acqua lustrale su di sé, è impuro. Sarà per loro una prescrizione perenne. Chi farà l'aspersione dell'acqua lustrale laverà le proprie vesti, e chi toccherà l'acqua lustrale sarà impuro fino a sera. Tutto ciò che l'impuro toccherà sarà impuro, e l'individuo che lo toccherà sarà impuro fino a sera.